Sa, sa, prova, sa. Sa, sa, sa. Ma perché poi dicono tutti sa? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Chiellini in avanti per Asamoah, in mezzo a cercare Dybala, 3-0 della Juventus, non sbaglia un colpo, Paulo Dybala è appena entrato e ha già messo la sua firma su Juventus Inter. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Bisogna mettere, direi, un muro su quello che è il girone di andata, visto che sì, è vero che abbiamo fatto 9 vittorie alla fine del girone di andata, ma è vero che all'inizio del campionato abbiamo fatto pochi punti, quindi abbiamo fatto 2 vittorie, il Napoli ha fatto altre 2, siamo 2 punti indietro, un mini campionato di 19 partite, ora sono diventate 17 e bisognerà essere molto bravi per vincerlo. Ale, ale, ale. Che sia un momento il più delicato della stagione, questo è vero, ma ci sono questi momenti durante una stagione per tutte le squadre. Noi ce l'abbiamo ora e l'unica cosa che dobbiamo fare è rimanere tranquilli, calmi e continuare a lavorare nonostante la delusione dei risultati, perché solo così possiamo riprendere la marcia. Ale, ale, ale. E quindi abbiamo l'ammissione di Allegri. Il campionato è una corsa a 2. Ieri sera in Coppa Italia l'Inter è stata eliminata di fatto dalla competizione, ma è stata di riflesso eliminata anche dalla corsa per lo scudetto, perché abbiamo capito perché l'Inter non lo vincerà e abbiamo capito anche qual è la distanza da quelli che invece lo possono vincere. Come, ciao Pierluigi Pardo, come va? Come va? Bene. Castelvolturno oggi. Yes, it's Castelvolturno calling for this game. It's a friendly game, è un amichevole fra Napoli e San Vito Positano, squadra del campionato di eccellenza che insomma, oggi vedremo, è una partitina ovviamente, però la trasmettiamo sul Premio Sport ed è ovviamente anche un'occasione dal forte valore simbolico. È un segnale, dopo sì. Ecco, dopo le polemiche, complimenti al di là di tutto, perché l'abbiamo detto mille volte, da una vicenda ormai trita e ritrita e certamente non edificante, è nata invece una cosa positiva. Dall'etame può anche nascere un fiore, diremmo. Bravissimo. Ascolta Pier, ho ragione, no? L'Inter eliminata dalla Coppa Italia ma anche dalla corsa scudetto. D'altra parte Allegri lo ha ammesso, mentre Mancini ha ragione quando dice non dobbiamo adesso fare le pegone impazzite, dobbiamo insomma rimanere solidi mentalmente, concentrati sull'obiettivo. Allegri invece ammette, vabbè, corsa a 2 per lo scudetto con il Napoli, mini campionato di 17 partite, ha detto molto la serata di Coppa Italia. Sì, ha detto molto, ha confermato assolutamente la forza della Juve, ha confermato delle cose. Cioè, Milan è una squadra ancora fragile e ancora in costruzione, anche se sicuramente è favorita per la finale e ha dei margini di crescita qui fino alla fine della stagione. L'Inter è in difficoltà, la partita di ieri è la prima volta dell'intera stagione in cui l'Inter perde nettamente. L'Inter ultimamente ha cominciato a collezionare passi falsi, dei pareggi come quello contro il Carpi, delle sconfitte clamorose all'ultimo minuto contro il Sassuolo, però una sensazione di difficoltà come quella che abbiamo visto ieri non c'era mai stata. Quindi è certamente un fatto nuovo e non positivo per Mancini. Adesso per fortuna di Mancini c'è una partita che potrebbe sparigliare tutto. Sì. È chiaro che l'effetto psicologico devastante della notte di ieri, se l'Inter vince il derby, si ribalta immediatamente, si cancella immediatamente. Sì. Certo, non si arriva al derby, diciamo, prima ho detto il bicchiere mezzo pieno, il bicchiere mezzo vuoto, che arrivi al derby in condizioni certamente molto molto complicate dal punto di vista psicologico. E appunto il bicchiere mezzo vuoto dice, guardandolo in trasparenza, che potrebbe essere un colpo sportivamente mortale per le ambizioni dell'Inter, che potrebbe cambiare anche diverse cose nella corsa al terzo posto. Mi aspetto la carica dei tifosi interisti ma anche juventini, 800240024 o di qualunque altra squadra, come al solito, compreso il San Vito Positano. Voglio farti sentire questa voce di Morata per rendere merito a Cruciani. La verità è che è stato un periodo abbastanza duro, non solo dentro il campo, anche anche fuori, ho avuto tanti, tanti problemi nella testa. Devo lasciare tutto quando entro al campo per giocare fuori, però sì, grandi campioni nella vita hanno avuto periodi difficili. Io che sono un calciatore normale, come non posso averlo anche io, però aspetto che non averlo più. Rendo merito a Cruciani perché lui per primo qualche mese fa aveva, grande esperto in materia, aveva ventilato la possibilità, l'ipotesi che Morata fosse caduto in crisi perché mollato dalla fidanzata. Questa è una mezza ammissione, non so se sia questo il problema che si riferisce a Morata, però si dice di Higuain, per esempio, che stia merito bene a Cruciani. Per questa l'altra fine della Lorenzo ci ha raccontato che dietro alla felicità di Higuain c'è una nuova fidanzata. Beh, insomma, le donne rappresentano molto della vita degli uomini e viceversa. L'aspetto affettivo, l'aspetto amoroso, l'aspetto familiare è fondamentale, decisivo. Se sei, poi non ci sono regole assolute, insomma, nel senso che poi il calcio è una cosa talmente strana, talmente particolare, talmente forte che poi magari c'è anche chi invece riesce a trasformare un'eventuale incazzatura esistenziale in un'occasione di riscatto e di risultato migliore in campo. Però generalmente, no, quello che sentiamo dire spesso dai calciatori è che la famiglia è molto utile, molto importante, molto preziosa. Cioè, perché ti ricordi un tempo c'erano i presidenti che spingevano per un matrimonio in età molto precoce, in modo che mettessero la testa a posto, eccetera. È vero, adesso non ho fatto statistiche in merito, ma credo che generalmente i calciatori sposino prima della media dei laureati o dei dirigenti d'azienda. Sono abbastanza precoci da questo punto di vista, e certamente il fatto di avere una famiglia stabile, poi sulla finestra il concetto è più largo, certamente dà una mano, perché il calcio, lo ricordiamo sempre, è un mondo di privilegiati, è un mondo di gente assolutamente invidiabile da mille punti di vista, ma è comunque un mondo che ti riempie di pressioni. Noi questa cosa qui dei calciatori dobbiamo tenercela bene in testa, non perché non trasformarli in eroi o in santi, per carità, però è oggettivo. Se sono comunque anche in biechi miliardari, senza biechi miliardari come dicono le certe signore che corrono 11 miliardari che corrono in mutande pallone, dietro un pallone ma però guarda, dietro questo c'è un po' di più, senza farne niente, però soltanto giusto per capire, c'è un risvolto psicologico di pressione, di fatica, che secondo me non va sottovalutato. Poi magari, ripeto, ieri con chi era, un altro ieri con Castellano, in bocca al lupo stasera, che sicuramente è il sogno di tanti, per esempio di Castellano, il sogno era diventare calciatore, quindi capiamo perfettamente questo tipo di cosa. Sono comunque dei privilegiati e dei fortunati, però ecco, ripeto, secondo me siamo veramente quella stabilità mentale poi Può aiutare. Senti Pier, c'è chi scrive: ha faticato più il Milan con Alessandria che la Juve con l'Inter. Mi sembra abbastanza oggettivo. Torniamo subito dopo il traffico. Abbiamo anche un ospite in cartellone. 800 24 0024 è il numero verde. Tutti convocati. Tutti convocati. L'analisi è che era una partita equilibrata, chiaramente con la Juve che spingeva di più, trovato il rigore alla fine del primo tempo e poi la partita era, la Juve ci aspettava per ripartire e in una delle ripartenze è avuto il secondo gol. Partita strana, che la Juve sicuramente ha meritato di vincere, 3-0 mi sembra un risultato un po' esagerato, ma questo è il calcio. Quindi, per parafrasare Mancini, Juve catenaccio contropiede. Anche in questo caso mi sembra ci sia qualcosa di più. Senti Pierluigi, quando farai coppia con Aldo Serena in gabina di commento? Beh, credo anche domenica a Chievo-Juve, se non sbaglio, giusto? Giusto Aldo? Esatto, domenica. Perfetto. Quindi vi vedete. Andiamo presto, vi sentite subito. Partiamo dalla Juve, poi andiamo sul vero tema di giornata, che è questa totale fragilità anche emotiva dell'Inter. Voglio sottolineare il fatto con tutti e due che Allegri è stato al solito perfetto nella gestione delle risorse umane, anzi master in gestione delle risorse umane. Morata, Cuadrado, lo stesso Asamoah, i migliori della Juventus ieri, poi entra Dybala e con quella faccia lì fa il killer come al solito. Aldo? Beh, devo dire che ieri, appunto, la conferma di Dybala, qui veramente servono pochi minuti per far vedere le proprie qualità, e il ritorno di Morata, credo sia proprio questo il titolo di questa Juventus, che ha ritrovato il suo bomber smarrito, non aveva ancora trovato la rete da tanto tempo, era frenetico quando entrava in campo, troppo agitato, aveva perso quella tranquillità sotto rete, e qui forse, ecco, non sempre Allegri è stato perfetto con questo ragazzo. È vero che lui ha a disposizione un parco attaccanti di primo ordine, e tutti più o meno hanno fatto il loro dovere. Era Morata, che non aveva fino ad ora fatto vedere le proprie qualità, ieri ha ricominciato un po' tardi, però io penso che sia in tempo per poter fare delle cose egregie, soprattutto nella competizione è quella che lo appassiona di più, la Champions. Sì, certo, intanto potreste anche vedervelo di fronte sul campo con il Chievo, perché Mandzukic ci ha fatto male, questa è l'unica brutta notizia che arriva dalla serata juventina, ha qualche problema fisico e quindi potrebbe rigiocare Morata in coppia con Dybala in campionato. Intanto noto come, caro Pardo, nella sua gestione, non per sottolineare ancora, però mi va, nella sua gestione Allegri non è mai finito fuori di fatto da una competizione, campionato, sì, Champions o Coppa Italia, fin qui. Sai come la penso. Occhio Bayern Monaco, attenti. Sì, ma guarda, io adesso sinceramente credo che il Bayern rimanga favorito, perché il Bayern è una di quelle squadre che sono quasi ingiocabili, no? Per i comuni mortali. Però la Juve comincia a diventare anche lei abbastanza ingiocabile per i comuni mortali. Quindi io francamente penso che sia sicuramente più equilibrata di come ci sembrava al momento del sorteggio, per merito della Juve che sta crescendo. Poi manca ancora un po', quindi bisognerà vedere da qui a metà febbraio, anche addirittura se non sbaglio il 23 febbraio il Juve Bayern, quindi manca praticamente quasi un mese, quindi 4 settimane può succedere di tutto. Però insomma io credo che le cose stiano mettendo bene. E questo bene, da un lato è molto positivo, dall'altro secondo me acuisce il rimpianto perché è chiaro che insomma, una Juve così, se non avesse fatto quella sciocchetta a Siviglia, poteva avere un cammino molto più regolare e fare strada. Poi sai, a un certo punto per andare avanti serve l'impresa, perché becchi grandissime squadre. Quello è l'unico punto nero, l'unico punto oscuro della stagione. La Juve è fra le prime 8 d'Europa, secondo me, non ci sono dubbi. È fra le prime 8 d'Europa, e se non farà un'impresa col Bayern non finirà fra le prime 8 d'Europa. Quindi questo secondo me è un grande rammarico. Sì. Però è tutta da giocare. Aldo, invece, l'Inter sembra uno che ha perso il portafoglio, dentro il quale c'erano la solidità, la fase difensiva, quantomeno, mentre l'attacco continua nella sua tremenda crisi. Adesso, probabilmente oggi arriverà Eder, poi ne parliamo perché avremo anche un capitolo di mercato che finalmente è esploso con un sacco di scambi e trattative. Eder si sta trattando in queste ore, Mancini lo vorrebbe addirittura per il derby. Alcune sicurezze dei nerazzurri stanno svanendo e soprattutto non perché, so. Perché hai un'idea? Beh, sotto il profilo personale devo dire che fino ad ora Handanovic ha fatto una stagione strepitosa, adesso comincia anche lui a non essere perfetto, ecco, infallibile come lo è stato fino a poco tempo fa, anche Miranda e Murillo, e quindi esatto, vuol dire che qualcosa sta cambiando. Sta cambiando nell'equilibrio, sta cambiando anche perché la fase offensiva spesso è lasciata all'invenzione dei singoli, ecco, non c'è secondo me una manovra d'attacco funzionale anche un po' alle caratteristiche dei propri giocatori. E in questo la prima parentesi, le parole di Icardi dopo la partita di Bologna sono state sicuramente al limite dell'offesa per i propri compagni, e lì è stato bravo Mancini a parlare in quel modo. Però anche Mancini secondo me dopo la partita con Icardi, dicendo quelle parole, dicendo che anche lui avrebbe fatto gol e soprattutto vorrei, allora a questo punto andiamo ad acquistare degli attaccanti. Siccome Mancini è l'allenatore, non solo, perché fa anche un po' il factotum all'Inter, va a contattare i calciatori, dovrebbe secondo me avere anche un'attenzione particolare quando ci si esprime, perché in questo modo può creare delle fratture nello spogliatoio e nell'altro modo può anche forse portare il valore dei propri giocatori, che sì, messi sul mercato in, può portare insomma, una caduta del valore dei calciatori parlando in quel modo. Quindi ecco, mi rendo conto che fino ad ora Mancini aveva fatto molto bene, è stato molto bravo. Adesso mi sembra che un po' ecco, si sia fatto prendere dalla preoccupazione, dalla tensione, e a volte non è sempre lucido nelle esposizioni. O magari è una strategia deliberata, perché mi sembra difficile che Mancini parli a vanvera. Secondo me ha un piano. No, ma poi, sicuramente. Che poi funzioni, è un conto che poi Aldo in linea di massima ha ragione su questo. Cioè, quando parli così dei giocatori puoi avere certamente reazioni di segno diverso. E forse è lecito, come fa Aldo Serena, Vardo, farsi qualche domanda su Mancini a questo punto, cosa che la gente interista si stava già facendo anche in maniera eccessiva. Pier? Ecco, sì, no. Ho sentito quello che diceva Aldo e sono d'accordo. Penso sia stato un piccolo cortocircuito della gestione manciniana di quest'anno. Cioè, è vero, l'abbiamo sottolineato a suo merito, che Mancini in questo momento nell'Inter rappresenta l'accentratore, l'uomo che fa delle scelte, l'uomo che ci mette la faccia, l'uomo appunto che contatta i giocatori che gli piacciono, grazie comunque alla sua bella immagine anche a livello internazionale. Quindi è un valore, è un grande valore. È chiaro che se tu vieni promosso nei fatti da essere tanto un allenatore a essere un manager a 360 gradi, e poi però non hai la forza, cioè nel momento nel quale fai un'uscita come quella, è chiaro Mario Reverso è una cosa tecnica che ho detto, chiaramente in quel momento lì ci può stare il fatto di ferire qualcuno, ci può stare il fatto di deprezzare qualcuno, come diceva giustamente Aldo. Io penso che in quel momento lui abbia fatto l'allenatore e l'uomo istintivo, quale Mancini è sempre stato, insomma l'abbiamo visto anche in Coppa Italia qualche giorno prima, quindi sono certamente delle prese di posizione istintive. E forse col senno di poi sarà pentito, però credo che lì l'obiettivo fosse quello di svegliare la squadra da un torpore, sì, dar due schiaffi emotivi alla squadra. Il migliore imitatore di Mare Kamsic al mondo, in diretta nazionale su Radio 24, è il tuo momento, fai una cosa fatta bene, migliore imitatore. Ma sono contento di fare questa partita, spero di fare un grande gol, è felice anche Sarri, primi in classifica, sono felice, molto bene, quanta qualità c'è? Tante, non si dice chi è, però com'era l'imitazione? Perfetto. Migliore del mondo, il collega Francesco Marciano. Vabbè, Senti, un'ultima cosa per Aldo Serena, poi lo salutiamo e con te Pierluigi ci ritroviamo dopo la borsa. Quello che volevo chiederti, Aldo, tu con l'ambiente ovviamente lo conosci come le tue tasche. Adesso il pericolo, il rischio che Mancini ha pure sottolineato ieri sera è quello di perdere un po' la testa, perché la gente è già in subbuglio. San Siro domenica nel derby sulla sponda interista non sarà particolarmente benevolo, magari volerà qualche fischio. Mancini dice rimaniamo calmi perché l'obiettivo comunque da centrare è il terzo posto ed è un obiettivo, viste le altre, ampiamente alla portata dell'Inter. Aldo, è vero, l'ambiente nerazzurro è particolarmente infiammabile in certi momenti, in certi periodi, e lo svincolo del derby domenica è fondamentale, perché l'Inter dovesse vincere prenderebbe anche di nuovo consapevolezza della propria forza, dovesse perdere probabilmente si avviterebbe su molte tensioni tra tifosi, società, calciatori. Ecco, domenica io penso che sarà proprio una partita di quelle proprio che ti fanno girare, svoltare in maniera decisa il campionato. La classica partita che vale 6 punti, insomma. Vale 6 punti, anche perché poi insomma c'è un girone da giocare. Sì. Milan, tanto per fare un nome, è lontano e secondo me rimarrà. Ha dimostrato di essere dietro, quindi non è una classifica. Però dovesse vincere il derby potrebbe a quel punto, con 16 partite davanti e 5 punti, potrebbe anche... Sì, magari prendere un abbrivio, quindi... o trovare quelle certezze che l'Inter sembra avere smarrito. Comunque è una partita certamente più delicata per l'Inter che non per il Milan, questo mi pare abbastanza chiaro. Grazie Aldo Serena, Pier, ci sentiamo dopo. Borsa. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Aldo, borsa 800240024 per le vostre chiamate. Alessandro e Gianni sono già in linea. Torniamo subito. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Jackie scrive abbastanza senza vergogna, perché era rigore ieri sera. So che non rispondete, ma fa lo stesso. Beh, non scherziamo, era rigore. Era rigore ed era rigore anche quello prima, secondo me, il mani di Medel, quindi mi sembra piuttosto evidente che fosse rigore adesso. Io voglio mandare un ringraziamento a Fabio Cangia, che è un ascoltatore. L'altro giorno ho detto, dopo aver sentito Gasperini che sbriciolava picconate quel odioso muro di omertà facendo nomi e cognomi di alcuni ultra ostili, io ho detto mi piacerebbe avere una maglietta, io sto con Gasperini. Ebbene, una meravigliosa maglietta mi è arrivata da Fabio Cangia e io lo ringrazio di cuore. E Luigi, sei libero? Io sto qui, sono appena stato anch'io, c'è stato rigore su di me da parte di un idrante. Ma poi questo arriva adesso. Siamo in mezzo agli idranti, il campo di Castelvolturno è... Spero spenti. Come andiamo? Aspetta, sentiamo che cosa servirebbe adesso per contro gli idranti. L'ombrello. Però io non ce l'ho l'ombrello. lo staff di Sarri, questo momento si sta scaldando. Non ti hanno fornito di ombrello. Mediaset, mandate un ombrello a Pardo, no, ma come vi permettete? Senti, io voglio parlare con gli ascoltatori, che sono tanti. Vai. Alessandro Fermo, buongiorno. Alessandro, buongiorno. Fermo, chiama da Fermo naturalmente. Salve, stia fermo perché si sente bene comunque. Dica. Pronto? Sì, eccoci. Buongiorno, ben trovati. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Comunque, se fossi col vostro direttore editoriale, che è intervista, vi taglierei lo stipendio a metà, Chi è il nostro direttore editoriale intervista? Chi è? È Meazza, non è interista, sì, mi pare. Ma chi, Mauro? Sì. Mauro Meazza, sì. Sì, ma è un interista. Editoriale. Non è direttore editoriale, ma comunque è un interista. È un interista. Beh, Meazza con, poi. Con il quale. La Fiorentina, Meazza. Meazza. Uno che si chiama Meazza, per chi può fare il team? No, ma uno poi. Che Pulici, come si... Poi Meazza è anche un interista con cui si può discutere in maniera approfondita e amabile. Non è un talebano dell'interismo, Mauro Meazza. Anzi, un giorno lo invitiamo. Sì, vorrebbe tagliarci lo stipendio. Anche no, sì. Invece anche no, Alessandro. Perché facciamo no. Niente taglio lo stipendio. Altro? La settimana sulle quelle dichiarazioni improvvide di Mancini, che quando la squadra fa la miglior partita dell'anno con un'attenzione precisa che è stata, lui non parla della partita e parla di questioni extracalcistiche. Voi giustamente per una settimana ne parlate in radio perché è la notizia giusta che c'è e che fa audience. La squadra perde concentrazione, pareggia col Carpi e fa la figura di ieri sera. Mancini c'è una colpa enorme in questo senso. C'è chi mi ha scritto prima Mancini niente finocchi ma una lasagna e tre pere, ha scritto un ascoltatore prima. Beh, ma non so se sia vero che abbia perso la concentrazione per quell'episodio. No, non lo so neanche io, però l'analisi del nostro ascoltatore è arguta, se mi passi questa espressione. Salvo il fatto di tagliarci lo stipendio. No, sì, quello sono completamente contrario, anzi a questo punto, visto che stavo detto questo, sarebbe bello un aumento per rispondere a queste voci. No, parte le battute. Sai, noi oggi sappiamo che il calcio moderno, gli allenatori sono sempre di più uomini di comunicazione, allenano i giornalisti, hanno un ruolo pubblico, Mancini questo ruolo se l'è preso, gli abbiamo anche fatto i complimenti in generale per quello lì, e poi però dal punto di vista dei risultati in campo sicuramente lui quel giorno ha parlato pochissimo della sua squadra, che ha fatto l'impresa a Napoli, no, ha parlato per nulla, ha rifiutato di parlare della partita, ma non so se questo possa aver avuto un contraccolpo emotivo sull'Inter. Questo non lo so neanche io, mi sembra strano. Sì, però insomma, voglio dire, siccome siamo abituati a considerare i gruppi delle squadre di calcio molto sensibili, molto delicati, e giustamente a sottolineare in positivo tutte le volte nelle quali si comunica in maniera efficace, se dovessimo giudicare dalle apparenze, sicuramente qui quel post Napoli-Inter non ha aiutato l'Inter. Gianni dalla provincia di Forlì, è interista? Sì, purtroppo. Purtroppo. Sì, purtroppo, perché proprio... mi fa talmente incazzare che voi non ne avete neanche un'idea. Perché... Mi ripete incazzare, per favore. Scusi la parola. No, ripeta, perché voglio sentirla. Sono molto incazzato. Anche la Z, meravigliosa. Non sento parlare. Prego. Dica Gianni, dica. No, io dicevo, il signor Mancini, ma lui... che è in campo, la vede giocare l'Inter? Perché suppongo di veramente sì. Veramente è una cosa, cioè quando il pallone parte dal portiere, fanno 40.000 passaggi prima e non si muovono. E non si muove nessuno. Io dico, ma gli altri vanno tutti dietro la linea della palla e per cui diventa un muro che è difficilmente si può superare. Ma lui, durante gli allenamenti, durante tutto il giorno, ma che cosa gli insegna? No, io non vedo niente giocare, per forza non fa gol. Vanno i due all'ora, fanno 50.000 passaggi, si scambiano sempre. Sì, si muove in orizzontale, si muove pochissimo per linee verticali, diciamo così. Senta, ma secondo lei Ederra, che sta arrivando, può aiutare oppure no? Guardi, io sinceramente lo dicevo oggi con mio fratello, guardi, Eder proprio è una hanno pochi soldi da spendere, quelli che spendono li buttano proprio via, perché io penso che l'unica cosa da non prendere sia proprio un attaccante, ha capito? Ci voleva un centrocampista che fosse in grado di giocare, di dettare l'azione, di dettare il passaggio, ma se no, cosa se ne fanno di Eder? Per togliere chi? Palacio o... mi sembra che là davanti, Gianni, mi sembra che con la stagione che sta facendo Jovetic, con Icardi che sta facendo fatica, con Palacio che, poveretto, dà quello che può, ma è chiaramente un giocatore che ormai non può più giocare titolare in maniera seriale, io credo che anche davanti qualcosa serva. O mi sbaglio, Pier? Ti passo, perché sto per fare il collegamento, ti passo Walter De Maggio, che ti racconto tutta dell'amichevole che stiamo per trasmettere su Premium. C'è la squadra del San Vito Positano che entra in campo. Come state, ragazzi? C'è ottimismo? Ciao. Ecco, adesso vi passo Walter. Ciao, buon pomeriggio da Castel Volturno. Ciao Walter, che succede lì oggi pomeriggio? Beh, insomma, è una bella giornata, soprattutto per il San Vito Positano, ma non solo, perché arriverà un messaggio molto forte. San Vito Positano sulle maglie avrà la scritta "Siamo tutti uguali", c'è presente il presidente onorario Cecchi Paone, e naturalmente per il San Vito Positano è una giornata speciale, davvero speciale, perché per loro che giocano e militano nel campionato di eccellenza, poter affrontare da vicino, poter sfidare il Napoli capolista, ovviamente fa sì che questa sia una giornata davvero bella. Speciale, è un bel segnale, un bel messaggio, anche... è qualcosa di pulito e di positivo, insomma. Sono assolutamente contento che il Napoli abbia deciso di raccogliere al volo questo invito a strettissimo giro di posta, quindi... Sì, tra l'altro il presidente De Laurentiis l'aveva già promesso ad Alessandro Cecchi Pavone, che avrebbero fatto questo, chiamiamolo, allenamento partitina del giovedì, e poi l'occasione ghiotta, dopo la lite tra Sarri e Mancini, si sono sentiti Aurelio De Laurentiis e Alessandro Cecchi Paone, e lo stesso Sarri è stato molto contento di poter organizzare questa amichevole. Tra l'altro ti segnalo che ci sarà anche il presidente dell'Arcigay Napoli Sannino, proprio per un messaggio importante. Tra l'altro c'è Alessandro Cecchi Paone, quindi ne approfitto, siamo in diretta Radio 24. Alessandro, dicevamo anche da studio, è un pomeriggio speciale per un messaggio molto importante. Noi siamo molto grati al Napoli, al presidente De Laurentiis e a Sarri, perché hanno capito l'importanza di dare un messaggio, che da Napoli e dal Sud arriva un chiarissimo invito a usare lo sport e il calcio per non discriminare. Guarda che maglietta, poi la vedremo in televisione su Mediaset Premium, siamo tutti uguali, ma non è soltanto un fatto di omofobia, è contro il razzismo, contro la discriminazione religiosa, contro la discriminazione del Sud rispetto al Nord. Quindi vogliamo dire che il calcio, anziché essere un luogo di cose negative, può essere un veicolo di positività. Beh, direi un messaggio molto importante quello che arriverà oggi da Castel Volturno, allora. Grazie Walter, e grazie a Cecchi Paone che ha detto cose molto sagge, molto belle. Non voglio diventare eccessivamente lirico, mi è venuta in mente una canzone lontana di Rino Gaetano, "Dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino". Troppo poetico? Forse sì. 800 24 0024, torniamo direttamente in prosa mentre c'è stata la presentazione di El Shaarawy oggi, ma anche quella di Cerci, che ha detto il Milan è stata una scelta sbagliata. Come sapete, Cerci del Genoa. Luca da Lucca. Quando mi chiamate? Luca da Lucca. Ci sono. Eccoci. Sì, no, io volevo semplicemente ricordare a Pardo che sì, l'Inter quest'anno non è la prima volta che perde di brutto una partita. Tutti quella con la Fiorentina. Mm. Ecco, però Pardo si è dimenticato come al solito. come al solito. Era solo una cosa polemica. Ah, benissimo. Pardo adesso non è più in linea perché è andato in cabina di commento, ma tanto lo sa Luca, quella sconfitta è stata talmente eclatante, talmente particolare che è impossibile da dimenticare, e ha ragione, non è la prima volta che l'Inter perde così. Ci fermiamo per il traffico? Sì, dai. Tutti convocati. Tutti convocati. Ma che cos'è? Attacca Cassano, si accentra Cassano. In due su di lui, ancora Cassano che insiste. Quello in sinistro, secondo palo, colpo di testa, rete. Il pari della Sampdoria, ha segnato Pazzini. Ancora per Cassano, nelle di rigore, Cassano, Pazzini, 2-0, tutti pazzi per Pazzini, a Marassi. Nostalgia, nostalgia canaglia, che ti prende proprio quando non vuoi. Cassano un po' scoperto in Catania, Cassano può puntare, c'è Pazzini in mezzo, attenzione a Cassano, proprio per Pazzini, e la Sampdoria in vantaggio, dopo 9 minuti, Pazzini. Nostalgia canaglia, siamo in pieno clima Sanremo, inaugurato ieri con la presenza guest star Enrico Ruggeri, di cui abbiamo parlato di Inter, ma più che altro di un festival a cui parteciperà. E poi risulta che la canzone Mano a Mano, che, di cui ho citato prima un brano, a me risulta di Rino Gaetano, ma io, come al solito, su questi argomenti chiedo indirettamente conferma Sua Maestà Marino Bartoletti, che se ho sbagliato mi ha già mandato un messaggio, poi controllo il telefono. Marco Verona, buongiorno. Buongiorno, sono Marco da Verona. Sì. Intanto, buona giornata. Buona giornata. Volevo dire che l'Inter andrà nelle prime tre. Ah. Mancini sta facendo un grande lavoro, e non si può mica dire come Pardo 20 giorni fa, 15, guarda, l'Inter sarà nel scudetto, e adesso per una partita che, ripeto, vediamo, no, domenica, abbiamo capito che non è da scudetto, Marco, però io sul resto sono abbastanza d'accordo con lei. A Verona vi offro la cena, lei è Pardo, sì, andiamo del più bel ristorante. Attenzione, le viene a costare parecchio. No, non c'è problemi, no, problemi zero, ma dico vinciamo la grande. E guardi, mi ispirate. Ma vinciamo che cosa? Arriviamo noi, l'Inter, sì, il primo posto, guardi, non ho... E lì, voi dite di no, ma io sono convinto di questo, perché c'è stato questo momento, ma vedrà la squadra come gira. Da domenica cominciamo già a vincere. È fondamentale vincere domenica, Marco, lei lo sa, quella è la cruna del lago, quel derby è la cruna del lago. Io allo scudetto dell'Inter non ci credo, a questo punto non ci credo più, ma proprio alla luce della differenza che ho visto anche ieri sera, no? Quindi in maniera indiretta, perché ovviamente non era campionato ma un'altra cosa, era Coppa Italia, però alla luce di quanto ho visto ieri sera e nelle ultime partite, nell'ultimo mese, io credo che l'Inter non sia più su quel convoglio, quindi su questo sono d'accordo con Allegri. Ripeto, invece, sono d'accordo con lei quando mi dice che se tengono la calma, la testa a posto, il terzo posto si può fare. Ciao Luca Marchetti da Sky. Ciao. Finalmente, allora, ci divertiamo. È coraggiosa oggi, c'è gente che invita a cena Pardo. Sai, non sa quello a cui va incontro. Non sanno quello che dicono, non sanno quello che rischiano. Esatto. Senti Luchino, finalmente ieri stavo dicendo, mai visto e sentito un mercato così depresso come quest'anno. Oggi finalmente hai lavorato un po' anche tu, Sì. E stai lavorando parecchio. Anche ieri devo dirti la verità, perché sono cominciato a muovere un po' di cose. Aspettavamo tutti i soldi dei cinesi. I cinesi, per fortuna, dell'Italia, del mercato italiano, hanno pagato, e quindi le società italiane adesso possono sbizzarrirsi. Pagano in yen. Pagano yen. Cioè, sì, la Sampdoria riceverà una pacchettata di yen. Un direttamente dallo Shanghai. Peraltro è in corso adesso uno dei tanti vertici della giornata, quello fra Inter e Samp, per sbloccare definitivamente la situazione di Eder. Si fa, no? Secondo secondo me sì, alla fine. In realtà la Sampdoria ha due offerte praticamente simili. E se dobbiamo dire la verità, quella dell'Eister è più solida, perché pagano in meno anni e pagano un po' di più. Però gli ottimi rapporti fra Inter e Samp, con tutte le varie scambi che ci sono stati, il prestito di Ranocchia, di Dodò, favorisce comunque questo tipo di situazione. In realtà dovrebbe decidere il giocatore, no? Sì. Però l'Inter ha il suo fascino, Mancini lo ha esercitato durante questi mesi di corteggiamento, e al di là del fatto che l'Eister è primo in Premier, probabilmente avrebbe messo in crisi chiunque, lo sta facendo anche su Eder, ma credo che alla fine Eder andrà lì. Sì, tra l'altro sappiamo benissimo, come lo sottolineavi giustamente tu, la strada Milano-Genova abbia due binari, Inter-Sampdoria, sì, qui è andato Ranocchia, Milan-Genova con deviazione verso Roma. Sappiamo che l'intreccio, uno dei grandi snodi del mercato è proprio questo, Ranocchia appunto ufficialmente della Samp a tutti gli effetti. Quanto alla Sampdoria, prima abbiamo sentito Nostalgia Canaglia, Pazzini, Cassano, eccetera. È chiaro che se va via Eder ne serve un altro, no? Ne serve un altro, lo stanno cercando, peraltro non è l'unico che va via, perché sta andando via anche Zucanovic, sempre Roma? Direzione Roma a questo punto, sì, perché la Roma ha preso tempo, e soprattutto ha preso tempo il giocatore con lo Stoccarda, la Sampa l'aveva venduto, la Roma invece ci sta pensando concretamente. E ti aggiungo anche Vasco Regini. Vasco che Regini interessa molto al Napoli. Napoli. Sì. Regini o Barba, un altro potrebbe andare maggio alla Sampdoria in questa operazione. Sì, è vero, te lo confermo. Quindi c'è un po' un clima di smobilitazione alla Samp in questi ultimi giorni di mercato. Era successo anche nel mercato estivo. Io non voglio tirarla agli amici doriani, ma quell'anno lì del Nostalgia Canaglia, Pazzini e Cassano vennero venduti a gennaio, se non ricordo male, non finì bene per la Samp. Sono quarti ultimi a fare queste rivoluzioni. Sì. Sai com'è contento Montella? Sai che felice che è Montella in questi giorni. Esatto, non credo che sia. Guarda, tornando agli attaccanti della Samp, un nome è Cardoso, ma costa molto. L'altro è Seferovic. Non so se te lo ricordi, con la maglia della Fiorentina, ha fatto un ottimo campionato a Novara, poi è andato all'estero, adesso gioca all'Eintracht Francoforte. E Fiorentina che pure ha fatto movimenti, via Mario Suarez, che è stata una delle stelle del mercato estivo. Adesso a questo punto possiamo parlare serenamente di Meteore, Meteore. E va al Watford dei Pozzo. Matos va sempre dai Pozzo, ma all'Udinese, corretto? Esatto. Mentre la Fiorentina prende Mammana. Sono in missione argentina per prendere Mammana, che è un centrale difensivo del River Plate, giovane, a 20 anni. Ne parlano molto bene, io sinceramente non l'ho mai visto, ti dico la verità. Io neanche. Però ormai le società italiane, se non riescono ad arrivare a dei giocatori già formati perché magari costano troppo, giustamente cercano di anticipare il campione. Cioè, se questo a 20 anni già vale 6-10 milioni di euro, significa che qualcosa ha. No, ma l'idea è buona, l'idea, se ha queste referenze corrette, e contando sulla sagaccia dell'osservatore della Fiorentina, probabilmente le ha, mi sembra un'idea eccellente. Un altro dei nostri che emigra e va da Guidolin invece è Paloschi. Sì, Paloschi, beh, lì questo è stato un vero e proprio blitz, perché il Chievo stava trattando la cessione di Paloschi con l'Atalanta. L'Atalanta era arrivata a offrire addirittura 7 milioni di euro più uno di bonus, quindi 8. Sono arrivati gli inglesi con 8 milioni di pound, che al cambio attuale fanno circa 10, e il Chievo ha subito accettato, anche perché qui la formula pagamento, insomma, fa la differenza anche in questa situazione. Il giocatore è ben contento di poter andare a fare questa esperienza in Inghilterra. D'altronde ormai la Premier è diventata un po' l'Eldorado, che è il campionato più ricco in questo momento, quello che ha più visibilità. Il Chievo non sostituirà di fatto Paloschi con un big, Quindi va avanti così. Darà spazio ad Inglese, su cui peraltro ha già messo gli occhi il Napoli per la prossima campagna acquisti. Prenderà un ragazzino, probabilmente Rossetti. Anche questa mi sembra un'idea corretta, mi sembra una buona idea, quella di puntare su Inglese e vedere di valorizzare. Il Chievo è molto più tranquillo della Samp. Appunto. A proposito di attaccanti, invece l'Atalanta è ripiegato su Boriello, sì. Denis è tornato in Argentina, e il Tanque, lo salutiamo. Sta mandando messaggi ai suoi amici attraverso i social network. L'Atalanta continua a dire che non è vero che va via. Sì. Ah sì? Vuole rimanere? non vuole tornare in Argentina. Mentre no, no, un altro che torna. Lui vuole andare via. Credo che l'Atalanta voglia concludere almeno prima l'operazione. Ecco. Sì, un'ultima cosa che mi ha fatto abbastanza ammazzare da ridere è l'ufficialità di Pato che torna e dove va? Sì. Al Chelsea. Al Chelsea, 6 mesi. In prova così a vedere se è ancora un giocatore di pallone? Beh, in prova no, perché lo pagano, non è che va lì in sascio. Quindi ha un contratto a tempo determinato. Bravo, contratto a tempo determinato. Diciamo che va anche lui a fare... di contratti a tempo determinato e indeterminato. Lo sai, la proposta a Dennis è di fargli un contratto praticamente a data aperta. Decide lui quando smettere all'Independiente. Davvero? Biglietto aperto? Torni quando vuoi. No, sì, smetti quando vuoi. Smetti quando vuoi. Meraviglioso. Luca, ti ringrazio, è sempre un piacere. Ciao. È sempre un piacere che... Oltre a, ovviamente, questa bordata di notizie di mercato che abbiamo dato, Luca Marchetti è uno dei colleghi più simpatici che io conosca. Silvano Mantova, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Trovato qualcosa di interessante per la sua squadra in queste notizie? Ma purtroppo niente, c'è il rammarico sempre in quanto tifoso di interista, niente, di vedere una squadra che non va, continua a non andare nonostante si cambiano tutti i giocatori, prendono un sacco di soldi a destra manca, però la squadra non va. Io penso che tutto sia dovuto anche a una regia che non va, probabilmente anche Mancini deve cominciare ad assumersi le proprie responsabilità. Sì, questo credo anch'io, deve uscire da questa grotta in cui l'Inter si è infilata. Questo è chiaro, ma è chiaro anche a Mancini. Ci fermiamo per il GR, ma torniamo, quindi state con noi e chiamate 800240024, numero verde. Tutti convocati. Radio 24 Day. Telefisco 2016, il nostro appuntamento con Radio Day ritorna con un nuovo ospite, Gianpaolo Ranocchi. Con lui vogliamo parlare di quelli che sono i limiti della dichiarazione dei redditi precompilata. Ancora molti dubbi che non la fanno decollare proprio come strumento. Quest'anno siamo alla seconda edizione, il secondo anno della dichiarazione precompilata. Si tratterà ancora di un esperimento. La dichiarazione precompilata, come sappiamo, è questo progetto di mettere online una dichiarazione precaricata da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma il punto critico della precompilata oggi è che queste informazioni ancora non si riescono a recuperare integralmente, per cui la proposta di dichiarazione è una proposta incompleta e le informazioni che l'Agenzia ha raccolto e delle quali non è sicura vengono parcheggiate, tra virgolette, in un'area informativa nell'ambito del quale è lo stesso contribuente o il delegato del contribuente che deve intervenire per valutare, per accreditare o per eliminare eventualmente i costi o gli elementi che non sono rilevanti per la propria dichiarazione. La criticità principale della precompilata sta proprio in questo, e cioè molto spesso in una dichiarazione incompleta il contribuente che deve intervenire per aggiustare quello che l'Agenzia delle Entrate ha inserito, e solo quando finalmente si riuscirà a raccogliere tutti i dati, tutte le informazioni, si potrà effettivamente pensare di mettere online una precompilata completa per i 7 trentisti. Radio Day torna più tardi, ancora con Telefisco e con nuovi ospiti. A dopo. In collaborazione con Audi, all'avanguardia della tecnica. Che dire, arrieccici. Convocati. Allora, per le due o tre casalinghe di Voghera, poco addentro le cose del pallone che ancora non lo sapessero, Filippo Galli è stata una colonna del Milan pigliatutto di Sacchi Capello e adesso è responsabile del settore giovanile rossonero. Dimentico qualcosa, Phil? No, direi di no. Così, ciao, anche quelle, buongiorno a tutti. Ciao, così anche le due o tre casalinghe di Voghera adesso sanno di cosa stiamo parlando e con chi stiamo parlando. Senti, Filippo, la stagione del Milan quest'anno secondo me ha un segno negativo e uno positivo. Il segno negativo sta alla voce gioco e risultati, quello positivo è invece una decisa politica sui giovani, quelli che arrivano dal settore giovanile che tu curi e anche quelli che sono stati presi tipo Romagnoli sul mercato. Sì, beh, direi di sì, insomma, nel senso che c'è stata grande attenzione da parte di Mialovic rispetto a quelli che erano i giocatori, i talenti che il settore giovanile poteva mettere a disposizione, primo su tutti ovviamente Donnarumma, ma anche lo stesso Calabria, anche se poi ultimamente non ha avuto molto spazio, però insomma, e poi Romagnoli, beh, l'ha voluto fortemente lo stesso Mialovic, e quindi sta dimostrando di essere, pur con la sua giovane età, un giocatore di sicuro affidamento, e noi siamo ben contenti, insomma, stiamo cercando di lavorare al meglio per portare i giocatori a ridosso della prima squadra. Abbiamo anche lo stesso De Sciglio, insomma, anche se ultimamente viene criticato perché manca di continuità, insomma, in questo momento occorre essere vicino al ragazzo e sostenerlo, perché insomma credo che sia, debba essere considerata una risorsa per il Milan, e quindi ecco, dobbiamo spingerci un po' accanto, vicino a lui, per sostenerlo. Vabbè, sono tre anni che parliamo di queste cose, il Milan è già da un po' che ha iniziato a seminare nel settore giovanile, perché un conto a prima squadra, su cui ci concentrano anche mille cose, mille polemiche, un altro lavoro che state facendo sul settore giovanile, e questi sono i primi prodotti che arrivano alla prima squadra. Ma su De Sciglio c'è una cosa che mi incuriosisce, un giocatore che a me piace enormemente. Spesso capita ai giovani che emergono molto presto di attraversare un periodo più o meno lungo di crisi. Perché succede e come se ne esce? Beh, bella domanda, questo è difficile dare una risposta, perché credo che poi ogni individuo abbia il suo carattere, il suo modo di reagire ai momenti difficili, quindi dare una ricetta su come risolvere certe problematiche è sempre compito arduo. Io credo che una flessione, soprattutto questa giovane età, ci sta tutta, quindi ripeto, bisogna, lui un ragazzo applicato, un ragazzo che di grande volontà, che sa dove deve crescere, dove deve migliorare, quindi da questo punto di vista io sarei tranquillo, ecco, quindi insomma, forse no, a me piace sempre pensare positivo. Ma può essere una perdita, cioè perdi fiducia a un certo punto e trovi delle difficoltà che invece prima non sapevi neanche esistessero? Sì, probabilmente anche questo, però io credo che sono convinto che Mattia sia strutturato per poter passare anche da questo, uscire anche da questo momento di difficoltà, insomma, ecco, anche se, ripeto, io credo che le buone prestazioni le abbia anche fatte. E quindi insomma non mi focalizzerei troppo su quelle che possono essere le sue difficoltà. No, poi di tempo non ce n'è mai, no? Vedi ad esempio anche con soprattutto nei momenti di difficoltà, vedi anche con quelli più grandi, vedi ad esempio anche con Balotelli, oggi leggo che è già stato bocciato, non è pronto per il derby, ma è uno che rientra da un lunghissimo infortunio. Era impensabile ma in generale che fosse in condizione, soprattutto probabilmente nel nostro ambiente c'è poco equilibrio, no? c'è poca attenzione a quello che appunto sono le varie situazioni. Io credo che quando un giocatore fa una buona prestazione non possa diventare tutto un tratto un fenomeno, così come quando fa una serie di cattive prestazioni sia diventato un brocco. Credo che anche nei giudizi ci voglia buon senso e un po' più di cautela, esatto, soprattutto, ripeto, quando i giocatori sono giovani, come nel caso di Mattia. Certo, ma vedi, anche dall'altra parte del campo milanese, no? All'Inter, fino a due settimane fa, scudetto, tutti i fenomeni, eccetera, adesso non c'è più niente che funziona, non c'è più niente che va bene, e ancora un po' si rischia la B. No, beh, io ovviamente non voglio parlare di quello che succede dall'altra parte, anche qui è un momento di riflessione che andrà compreso da parte loro, e poi mi auguro che trovino le soluzioni, ovviamente dopo il derby di domenica. Sarà Sandir, certo. Un'ultima cosa che ti volevo chiedere, Filippo, ed è da un po' che te la voglio chiedere. In Spagna sai benissimo il casino che è venuto fuori sulla tratta dei minori, la tratta dei ragazzini, che ha bloccato il mercato del Barcellona e che ora bloccherà quello delle due squadre di Madrid. Ma è un fenomeno solo spagnolo questo? Ma io, allora, innanzitutto vorrei andare a fondo rispetto a quello che è successo e quello per cui questi club vengono sanzionati, a cui viene imputato a questi club, e perché vengono sanzionati, anche perché insomma io credo che questi club abbiano, voglio dire, dal punto di vista della responsabilità sociale, le idee chiare. Non credo, insomma, che siano arrivati al punto di andare a creare o voler creare problemi a dei giovani ragazzi. Credo che se hanno fatto qualcosa lo hanno fatto in tutta buona fede, e poi qualcosa magari dal punto di vista dei regolamenti forse è sfuggito, ecco. Ripeto, non conosco a fondo, quindi nessuno credo che conosca a fondo quello che è successo e quali sono le cose che vengono imputate, e non conosciamo la vicenda in fondo. Certo. Per cui dare dei giudizi davvero mi sembra, certo, anche qui a quanto affrettato. Certo, no, mi sembra anche una vicenda. Ci sono degli organi che li daranno, perché li devono dare, ecco. Però poi chiaro, io che ci sono dentro, sono stato. Ma io credo che quando insomma, si prende un ragazzo di talento, con un mercato globale, quando si prende un ragazzo di talento da un altro paese, cosa che insomma succede anche tra Italia e l'Inghilterra, ci sono stati dei passaggi di giocatori molto giovani, sì, italiani, sì, sì, che vanno là, penso che si facciano le cose con determinate, sì, garanzie, si no? Si devono fare le cose con criterio, considerando anche la giovane età, considerando poi l'estrazione di questi ragazzi, da dove vengono, e quindi stare, insomma, sono situazioni molto molto delicate, e a volte magari si pensa di fare il bene di questi ragazzi, non sempre si riesce, però ecco, io credo che ci sia buona fede da parte di questi club. Dopodiché se hanno contravvenuto quelle che sono delle regole, è giusto che paghino, però ecco, credo che poi ci sia un aspetto legale, sì, normativo, sì, ci sia, sì, anche, sì, un aspetto morale. Sicuro. Vanno, sì, divise le due cose. Un'ultimissima cosa, per un ragazzo giovane, ti posso portare l'esempio di Donnarumma perché è più facile, o di Calabria, non è pericoloso andare a giocare in una prima squadra che è sotto pressione, che ha molte difficoltà, che... cui il pubblico concede poco, che insomma che ha tanto peso sulle spalle. Io questo che sia uno degli aspetti più difficili, soprattutto del calcio italiano, no? La maturazione di un giocatore la si vede anche qui, nella capacità di superare le difficoltà dal punto di vista proprio delle pressioni che si vengono a creare nel nostro campionato. A volte magari, ecco perché si parla tanto di queste seconde squadre che dovrebbero già partecipare ai campionati professionistici, e che sarebbe un'ottima soluzione. Le leghe minori potrebbe essere una soluzione, non so se è ottima, perché poi un conto è il processo, cioè fare quello che si intende fare, poi valutarne l'esito. Io credo che poi, una volta che si sarà fatto questa scelta, se mai si farà, andremo poi a capire se è la scelta migliore. Può darsi di no, io non ho la sfera di cristallo, credo che nessuno lo possa dire, però proviamo almeno, se sì, non altro. A me è una soluzione, per il bene, piace del calcio italiano, certo, e dei nostri certo, giovani. Beh, però comunque non sei preoccupato quando ti dicono Donnarumma titolare in prima squadra? Oddio, adesso questo, sai, no, si dice lo bruciano, però no, un sacco di pressione. Detto, io ho sempre detto che Donnarumma è un po' un'eccezione, no? Che conferma la regola, nel senso che lui è, nonostante la giovane età, dal punto di vista caratteriale, ha una struttura particolare che sta a superare anche le difficoltà. Adesso è stato messo così dopo la partita che è stata giocata a Empoli, qualcuno ha detto che ha commesso degli errori, e quindi credo che lui ne deve venire fuori, se vogliamo, ma ha già in altre occasioni, rispetto a qualche critica, ha avuto la forza di reagire nell'ambito della stessa partita, quindi ecco, io ripeto, per me Gianluigi ha una struttura da questo punto di vista già da adulto, se vogliamo, sì, è chiaro, sì, che non puoi esagerare, voglio dire, no? Quindi tutto l'ambiente, almeno da parte nostra, deve essere lì vicino, ma questo sono sicuro che gli accadrà e lo stiamo vedendo, insomma. Grazie Filippo, grazie come voi, sempre. Grazie a voi, un abbraccio, ciao, Carlo, un abbraccio, ciao. Filippo Galli. Torniamo agli ascoltatori. Gianni da Bologna, buongiorno. Buongiorno direttore, complimenti per la trasmissione. Non sono mica direttore, sono quello che parla di sport. Comunque, complimenti, grazie. Facciamo i complimenti a chi risponde ai centralinisti, che sono sempre bravi. Assolutamente. Io da tipo fiorentino le pongo una domanda, lei esperto, mi risponda adesso. A questi critici e a Conte, che due anni fa hanno detto che questa squadra era finita. Se la Juve dovesse rivincere lo scudetto, andare avanti in Champions e rivincere la Coppa Italia, beh, io credo che Conte ha sbagliato in pieno. Beh, ma già adesso mi sembra, no? Cioè, Conte, se Conte pensava di trovarsi per le mani, che è successo? Gianni? No, se Conte pensava di trovarsi per le mani una squadra scaduta, una squadra finita, una squadra che non avesse più niente da dire, beh, l'errore di previsione è già assodato alla luce della stagione precedente. Ripeto, con la gestione Allegri, la Juventus finora non è mai uscita da alcun torneo. Ha perso la finale di Champions League, ma ha vinto Scudetto, Coppa Italia. Quest'anno è lì per lo Scudetto, per la maratona dello Scudetto, ed è lì, e sono rimaste soltanto in due. In Champions è ancora dentro, vediamo con il Bayern Monaco, l'ostacolo è altissimo. In Coppa Italia si giocherà la finale, perché non credo ad alcun ribaltone a San Siro, quella mi sembra fantascienza pura. Dunque, questo è un capolavoro di Allegri, che ripeto mi sta sorprendendo sempre di più nell'affinare l'abilità di gestire il personale, perché è evidente come, insomma, molti indizi, ormai sono moltissimi gli indizi che fanno una prova sia nelle rotazioni all'interno della partita, e sono diverse le partite che la Juventus ha cambiato con una manovra di Conte, con l'ingresso di un giocatore, ad esempio Cuadrado domenica con la Roma, ed è l'ultimo esempio. Ieri sera, guarda caso, i tre che ha messo titolari, e che sono lo stesso Cuadrado, Morata e anche Asamoah, che non si vedeva da un pezzo, sono stati grosso modo i migliori della Juventus. Quindi gestisce in maniera perfetta questo gruppo. Antonio, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. La provincia latina poi è uguale, va bene lo stesso. Beh, Bergamo latina c'è una bella differenza. Io ho scritto provincia di Bergamo, tra Bergamo e latina. Senta, una prima considerazione. Io mi ricordo un paio di mesi fa una battuta di Trappattoni che diceva che la Juve è praticamente come un gatto, ha sette vite, quindi ne puoi togliere due, tre, ma ce n'avrà sempre quattro, cinque. E si è dimostrato che aveva ragione, secondo me. Poi un'altra cosa, poi qua vi dirà lei se c'ho ragione o meno. Secondo me chi tra Juve e Napoli va avanti al prossimo turno in Coppa, l'altra vince lo Scudetto. Secondo lei ho ragione? No, non necessariamente, Antonio. Non necessariamente, perché a parte che gli impegni sono diversi in maniera profonda. La Juventus ha un playoff, una sudden death contro il Bayern di Monaco, quindi andata e ritorno. Il Napoli vive su un pianeta un po' più morbido e che ti mette anche un po' meno pressione. Cioè, non vorrei enfatizzare il ruolo delle coppe europee, naturalmente speriamo vadano avanti come i treni tutte e due, però non vorrei enfatizzare questo aspetto. Io credo che sarà una lunga maratona fianco a fianco invece, e credo addirittura che non sarà poi così decisivo il confronto diretto a Torino il 13 di marzo, di febbraio, quindi è dietro l'angolo. Credo invece sarà una lunga ed estenuante corsa in cui vedremo chi mollerà prima, ma non penso che le coppe possano essere un fattore così determinante. Filippo Maria Ricci c'è? Mi è sparito. Come dal no? Monitor? No, perché mi è sparito il nome di solito. Filippo Maria Ricci, pluf, dove è finito? Ciao Phil. Ciao, buon pomeriggio. Che notizie arrivano dalla Spagna? Barcellona che passa con l'Atletico Bilbao e il Celta Vigo che va fuori l'Atletico della Coppa del Re. Atletico Madrid. Esatto, l'Atletico soffre ancora di più, esce. La cosa più interessante è questo, no? Parlando di squadre ambiziose però con pochi mezzi, no? Questo Celta di Vigo che ha scelto di giocarsi la Coppa del Re, sì, e quindi ha fatto turnover in campionato, ha perso 3-0 col Rayo Vallecano. Poi però è tornato a Madrid e ha vinto al Calderon, cosa non semplice, gli ha anche fatto tre gol, cosa che non era mai successa quest'anno. E ovviamente se tu tanto la Liga non la vinci, no, in Europa possono andarci, sono ancora candidati, però la Coppa del Re è un obiettivo, sì, ha puntato forte su quello. È interessante, questo è... L'Atletico è in difficoltà, il Barcellona anche, però il Barcellona ha degli attaccanti mostruosi che risolvono i problemi, e vediamo, perché sabato qua c'è il partitone, sabato alle 4 c'è Barcellona Atletico, sono appaiate, Barcellona ha una partita in meno, gli stessi punti, e vediamo come va a finire, insomma. Certo, mi sembra un po' verso la fine il ciclo Simeone al Atletico Madrid, ma questa è solo una sensazione che io ho da lontano, Sì, cioè loro hanno, sì, perché poi ovviamente per Simeone è uno dei candidati alla panchina del Chelsea, no? Ovviamente Simeone può fare quello che vuole all'Atletico, li ha salvati da un oblio assurdo, li ha portati, no, alla Liga, alla finale di Champions. Adesso loro hanno gli ottavi di finale tranquilli con PSV, mm-hmm. Non dovrebbe essere un grande problema. Però vediamo come va a finire. C'è qualcosa che sì, insomma, che non funziona. Che sembra essere rapporto con Torres logorato, esatto. Ovviamente logorato dalla scarsa condizione di Torres. Però sai, quando si devono gestire questi miti, e poi tra l'altro Torres è tornato perché l'ha voluto Simeone. Ti ricordi, in un momento di grande difficoltà dell'Atletico dopo la morte del tifoso del Deportivo? Sì, fu anche abbastanza una manovra di marketing, diciamo così. Sì, però poi gli portò anche i gol nel derby, in Coppa, gol con Real. Insomma, qualcosa va fatto. Adesso insomma, Torres è in grande difficoltà, però gestire l'uscita di questi miti, abbiamo visto, no, Raul, Casillas, lo stesso Xavi, insomma, sono sempre complicate le uscite, e quindi questo anche crea una piccola divisione, insomma, ecco, è un momento particolare per per l'Atletico. Mentre è già finita la luna di miele fatata tra Zizou e Real, no, il pareggio oggi interno. Grande pagina di Marca, o anche forse due, dicendo che tutti gli vogliono bene, e non è successo niente, tutto a posto. Tutto, sì, fantastico. E poi hai visto anche la reazione piccata di Rafa da Liverpool, cioè è apparso questo grosso articolo sul Mail on Sunday domenica scorsa, che mi sembra proprio sentir parlare Rafa. Ovviamente di Rafa non c'era traccia, non c'erano virgolette, però in cui racconta di come sì, Florentino gli abbia chiesto di usare mano dura, e poi appena ha cominciato a usarla, perché dice ecco, Ancelotti non lavorava, non faceva niente, come lui si è messo a fare le cose un po', diciamo, in maniera un pochino più dura per i giocatori sono andati a protestare dal Florentino, e da lì in poi non c'è stato più modo di recuperare il rapporto. Insomma, vengono fuori i giocatori qua, ogni settimana c'è qualcuno che parla, che dice che hanno fatto bene a cambiare, che non si poteva più, in maniera decisamente poco elegante. A proposito di gestione del personale, ne parlavo prima citando Allegri, che è perfetto nella gestione del personale. Insomma, gestire il personale di una squadra del Real Madrid non è che usi la mano dura, la mano morbida o la mano morta, ci vuole grandissima intelligenza e abitudine. Sì, Rafa non ha avuto nessuna delle due cose, sinceramente. Cioè, è arrivato il primo giorno e si è messo subito contro Ronaldo, e da lì in poi non ha capito. Cioè, a me, mi ha sorpreso Rafa, perché alla fine lui diceva torna a casa, si mette a piangere, no? Non si è reso conto che la Spagna era cambiata, il rapporto tra calcio e media era cambiato, e soprattutto era cambiato il Real Madrid. Sì. Non se n'è accorto e ci ha lasciato le penne. E devo dire, senza quasi, non so come dire, in buona fede, sempre in buona fede, però non ci ha capito niente. Grazie Filippo. A voi. Alla prossima con Filippo Maria Ricci. Ragazzi, allora torniamo domani. Torniamo domani con tutti i convocati. Mercato, ripeto, ormai è entrato nella fase caldissima, e quindi ovviamente ne parleremo. E poi continueremo su tutti i temi che volete, dall'Inter alla Juventus, alla prospettiva derby per il Milan, alla Roma. Che chissà se riesce a portarsi a casa sto Zukanovic, sembra che voleva lo Stoccardo, voleva a Roma, sembra quello che gli risolve tutti i problemi. A me, vista la Sampdoria, non sembra poi così un fenomeno. Mi sbaglierò. Grazie a Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Binda in redazione. Ciao. Ciao, aiuto.